con Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica per parlare del documentario Piazza Vittorio di Abel Ferrara in uscita in sala il 20 settembre. Massimo, ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Questo Raccontaci. nuovo progetto Mariposa Cinematografica, questa volta abbiamo un documentario bellissimo del maestro Abel Ferrara. In sostanza Abel Ferrara vive da tanti anni vicino Piazza Vittorio e quindi nel corso delle sue camminate per il quartiere per cercare di capire com'era questo quartiere, perché chi conosce Piazza Vittorio sa che Piazza Vittorio è un mix di bellezza e di degrado. Di persone di tante etnie che vivono, lavorano, che non lavorano e che sono lì accampate a Piazza Vittorio. Insomma, è un mix di culture, di etnie incredibile. Camminando per il quartiere, lui ha deciso di fare questo racconto suo di viaggio, incontrando le persone da, come si dice lui, immigrato, perché in realtà anche lui è un immigrato che è venuto qui. In Italia magari è un immigrato sicuramente con una posizione sociale diversa, però comunque è sempre il termine immigrato e incontra le persone camminando per il quartiere e per Piazza Vittorio. Diciamo una camminata lunga 2 anni che ha generato, ne parlavo proprio ieri con il montatore, ne ha generato più di 50 ore di girato e da qui è uscito fuori con il montaggio un documentario di 75 minuti molto affascinante. Di un occhio di un regista, grande autore newyorkese che vede Roma e vede Piazza Vittoria. Quindi da quello che mi hai detto, il progetto è partito piuttosto come desiderio di Abel, che poi ha impiegato 2 anni comunque. Sì, nel senso poi le interviste sono state concentrate in un periodo di tempo molto più breve, però ci sono alcune estratte nel film girate con il cellulare, quindi lui va in giro con il cellulare e parlando riprende. Tra le persone che intervista ci sono anche delle persone che vivono da tantissimo tempo nel quartiere, come Matteo Garrone, soprattutto come Willem Dafoe, addirittura Willem Dafoe da più di 15 anni, e che spiegano il motivo perché loro hanno deciso all'improvviso di trasferirsi a Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino, affascinati insomma da questo quartiere che ha tantissimi problemi, ma che comunque l'umanità di tante persone italiane ed extracomunitarie che vivono lì e lavorano anche, soprattutto legalmente, ne fa un mix incredibile. Che ritratto ne esce fuori e cosa ti ha convinto di più del documentario? Ma sicuramente la cosa che mi ha convinto di più è lo vedere, ero molto curioso di capire come una persona straniera, per quanto sia un grande autore, veda Roma, veda questo quartiere che frequento tantissimo per via della collaborazione che ho con l'Associazione Culturale Apollo 11 e per via di tante associazioni che ci sono lì sul territorio. E quindi affascinato da Abel Ferrara ha voluto vedere e sondare come vede qualcuno, come ci vedono. E da lì è partito il fascino. Ci sono immagini di repertorio dell'Istituto Luce con immagini appunto girate nel mercato, al mercato centrale, al mercato dell'Esquilino, nei banchi di Piazza Vittorio. Quindi insomma è un viaggio affascinante. Dal punto di vista E tecnico, il una risultato cosina credo che. sia diseguale se mi dici che anche col cellulare ha ripreso. Sì, ci sono alcune scene, ma insomma nell'economia, nella struttura narrativa del film ci stanno benissimo. E quindi si va dalla persona anziana che vive il quartiere da tantissimi anni, che detesta questo mix di integrazione, a quelle che invece sono affascinate e che non lascerebbero mai il quartiere, fino a quelle persone che si sono trasferite lì. Cinesi come Sonia, come il famoso ristorante Sonia che c'è all'Esquilino, come un macellaio tunisino, e insomma c'è di tutti i tipi, c'è chi è critico, chi non lo è, e c'è anche un intervento che è poi l'argomento forse di conversazione più forte di questo, c'è anche un intervento di un attivista di Casa Pound, perché comunque vuoi o non vuoi nel quartiere ci sono anche loro. Senti, purtroppo l'incontro con l'Apollo 11 però non c'è stato. L'incontro con Apollo 11, dai, in sostanza quello l'ha detto sempre Abel Ferrara, lui è un diario della sua quotidianità, incontrando, andando per le strade. Non è andato a cercare, non ha incontrato le associazioni culturali, che ce ne sono tantissime, che fanno un lavoro grandioso, tra cui l'Apollo 11 sul quartiere. Lui voleva andare a parlare con le persone che vivono e che camminano a Piazza Vittoria. Una curiosità rispetto alle varie comunità: che occhio hanno sulla città e sul, diciamo, la convivenza? Chi lavora e si è integrato non vede tutta questa grande difficoltà nel connubio Italia-estero come quello che si vede sui giornali. Chi lavora e chi, insomma, chi vive da tanto tempo ha sviluppato amicizie anche con gli italiani, e gli italiani hanno sviluppato anche come amicizia con extracomunitari. Considera che nel quartiere c'è una scuola che è la Di Donato, che è proprio è un modello europeo per l'integrazione, dove nelle classi vengono scelte, i bambini sono di tutte le classi sociali e di tutte le etnie mischiate, fanno tante attività insieme, quindi è un po' diverso da quello che magari nei giornali in questo momento si sta leggendo. Potrebbe essere un esempio un po' per tante realtà, se non fosse che anche il quartiere Esquilino sta avendo un problema che poi è generico, è proprio generale di tutta Roma, che è un po' allo sbando tra poveri, tra mendicanti e sporcizie, insomma. Ovviamente, essendo il quartiere Esquilino pieno di tante realtà, sembra più evidente rispetto ad altri quartieri, ma in realtà ha gli stessi problemi, solo che in questo caso c'è molta integrazione, più di quella che si possa immaginare. Infatti è per questo che il quartiere Esquilino è pazzesco. Dico da romano, ma insomma faccio pubblicità più al quartiere Esquilino che non al film. Massimo, che uscita sarà? La classica uscita di una distribuzione indipendente che si appoggerà a delle sale che amano e sostengono il cinema indipendente, ovviamente grazie al fatto della presenza di Abbe Ferrara. È un'uscita un pochino più allargata rispetto alle classiche uscite di distribuzione indipendente, ma essendo un documentario io non mi focalizzo sulla data di uscita, quindi al solito vedremo il film nelle città più importanti e poi si andrà in profondità. Io ho tantissime prenotazioni del film anche a ottobre, quindi resistete, chi non lo vede apparentemente il 20 settembre arriverà anche nelle altre città. Bene, allora ricordiamo Piazza Vittorio di Abel Ferrara, documentario in uscita dal 20 settembre nelle sale. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica, che lo distribuisce. Massimo, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie mille. Ciao. Buona